quando non vogliamo sentire quello che è dettato dal cuore, riusciremo mai a capire che la passione e la morte è un fiore, celando per solo pudore quello che vorremmo gridare, con l'ansia fa passire l'amore, rimani solo e ti senti morire. L'amore mette le ali, se lo senti devi volare, e ti accorgi intanto che sali, che il tuo fiore potresti salvare. Per l'amore non contano gli anni, solo i battiti e le emozioni. Della vita non sono gli affanni, vengono dal cuore le nostre lezioni. Ho superato una volta soltanto le righe di un testamento, ereditato dai ben pensanti, ho visto la luce in quel momento. Usiamo adesso le nostre ali, solo amando possiamo volare. Forza adesso, incomincia a salire, quel fiore non farlo appassire. Mette le ali, se lo senti devi volare, forza adesso, incomincia a salire, quel fiore non farlo morire.